English Bit di Giulia Crivelli. Survive, the next catastrophe and how to survive it. Sono le parole scelte dall'Economist per il suo numero più recente, illustrate da un disegno che vede una famiglia di tre persone, con gatto, sedute su un divano, tutti con maschere a gas, tranne il bambino, che indossa un elmetto da soldato. La prossima catastrofe è come sopravvivervi. La prima parola che ci interessa è catastrophe. Il significato è chiaro, ma vale la pena sottolinearne la pronuncia, è scritta con la E finale, I in inglese, che viene quindi scandita, proprio come il marchio Nike, che in inglese va pronunciato Nike, con buona pace della dea greca Nike e di chi, anche in Italia, legge appunto Nike. Come nella nostra lingua, ha un significato letterale di catastrofe naturale e figurato. Early warnings of rising water levels prevented another major catastrophe. I segnali di allarme sull'innalzamento del livello delle acque furono lanciati per tempo e permisero di evitare una catastrofe enorme, potremmo tradurre. The attempt to expand the business was a catastrophe. Il tentativo di entrare in nuovi comparti fu una catastrofe per l'azienda. Catastrophic e catastrophically sono l'aggettivo e il verbo, senza grandi sorprese. Tornando al titolo del settimanale britannico, guardiamo il verbo to survive, regolare. To survive, survived, survived, letteralmente sopravvivere. She was the last surviving member of the family. Era l'unica componente della famiglia ancora in vita. Of the six people injured in the crash, only two survived. Delle sei persone coinvolte nell'incidente, solo due sopravvissero. Si può usare anche in senso ironico, come in italiano. Don't worry, it's only a scratch. Use a simple band-aid and you'll survive. Non preoccuparti, è solo un graffio. Mettiti un cerotto e vedrai che sopravviverai. Some strange customs have survived from the past. Alcune strane usanze del passato si sono salvate, diremmo noi. I can't survive on 100 euros a week. 100 euro a settimana non bastano. Nel senso, non si vive con una cifra così. He survived as party leader until his second election defeat. Riuscì a restare al comando del partito fino alla seconda sconfitta elettorale. The company managed to survive the crisis. L'azienda riuscì in qualche modo a superare la crisi. Many birds don't survive the severe winter. Molti uccelli non riescono a sopravvivere a inverni troppo rigidi. She survived her husband by 10 years. Visse 10 anni più del marito. Survivor è il sopravvissuto, come sappiamo anche dal titolo di una serie televisiva. The plane crashed in an area of dense jungle. There were no survivors. L'aereo si schiantò in un'area dove la giungla è molto fitta. Non ci furono sopravvissuti. There are only a few survivors from the original team. Restano solo un paio di giocatori della formazione originaria della squadra.